sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda l'Europa, continua il Tsipras Tour, chiamiamolo così, perché oggi ha incontrato, e ascolteremo anche alcuni passaggi, quelli che riusciamo a farvi ascoltare, sia il presidente del Parlamento Europeo, e mi riferisco quindi a Martin Schulz. Tra l'altro, insomma, varie dichiarazioni, ci arriviamo subito. Ha chiesto di nuovo un compromesso Tsipras, e Schulz ha detto sì, faremo un compromesso, si può ragionare di un compromesso sulla base di un programma di governo. Lo stesso Schulz ha detto a Tsipras vuole la cooperazione, non l'uscita dall'Unione Europea. L'incontro anche con Hollande e l'incontro tra il ministro alle finanze, ormai una star, sia Tsipras che Varoufakis, forse più per il look oltre che per le proposte, ma dicevo, Varoufakis ha incontrato il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, e un confronto veloce. Varoufakis ha detto a Draghi, avrebbe detto, perché sono tutte fonti, non ci sarà in Grecia nessun business as usual, quindi non si andrà avanti per inerzia, ma avremo un programma articolato. E poi ha detto sempre Varoufakis, io immagino un piano Merkel sull'esempio del piano Marshall, molto malizioso, perché insomma, il piano Marshall, per chi non se lo ricorda, fu quel piano lanciato dagli Stati Uniti che coinvolse la Germania in primo luogo, ma anche l'Italia, in cui si andava ad aiutare i paesi usciti perdenti, sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì l'ipotesi di Marshall era che senza questi aiuti questi paesi sarebbero stati spinti verso una deriva comunista. L'Italia, con l'allora più grande partito comunista dell'area occidentale, ma anche la Germania, e quindi ricostruire le basi economiche, la classe media e anche la classe popolare serviva a non spingere questi paesi verso un avvicinamento all'Unione Sovietica. Dico che il tema è abbastanza malizioso, perché è un modo indiretto per ricordare alla Germania che anche lei in anni passati ha ricevuto come aiuti. Tra l'altro nel 1953, lo dico per inciso, fu cancellato il debito di guerra della Germania con vari paesi, tra cui la Grecia. Ecco, la storia poi ritorna, quando uno si spinge a questi livelli poi torna a riemergere prepotentemente la storia. Parleremo subito di questo Tsipras che sta sconvolgendo, e devo dire la verità, forse mettendo in un angolo Angela Merkel, a mio avviso è più Barack Obama che l'ha messa in un angolo con le dichiarazioni di tre giorni fa, criticando fortemente l'atteggiamento tedesco e dicendo che la Grecia, per pagare il debito, deve essere permesso alla Grecia di tornare a crescere. Però anche Tsipras sta molto rimescolando le carte, e avrete notato che nessun leader europeo, nemmeno oggi Hollande, nessuno si sta schierando contro Tsipras, perché la tentazione di usare Tsipras come cavallo di Troia per arrivare a un altro tipo di modello dell'area euro è fortissima in tutti, quindi nessuno va a dire esattamente a Tsipras no, rispetta i patti e basta. Tutti condividono con lui l'idea che si debba pensare a un'altra Europa, tranne la Germania, che a mio avviso in questo momento sta vivendo il rischio di un forte isolamento di carattere anche diplomatico. Di questo parleremo, parleremo anche di un tema molto molto italiano come la riforma delle banche popolari. Oggi i titoli sono in crescita, la Popolare Emilia Romagna più 3,80%, Banco Popolare più 2,80%, Pop Milano più 2,60%, hanno accelerato già da inizio mattinata anche la Popolare Etruria e Lazio, la Popolare Emilia Romagna e quant'altro. Ieri c'è stata una dichiarazione importante del Premier Matteo Renzi, che ha detto: noi andiamo avanti dritti sulla riforma a costo di mettere anche la fiducia. Se vi è stata una speculazione, ci sarà l'indagine della Consob a dircelo. Oggi c'è uno studio di Equitasim che identifica in un'autoriforma quella che adesso sta discutendo il mondo delle popolari, riunito infatti l'assemblea delle asso popolari. Dicevo, una riforma secondo Equitasim, pur non essendo il migliore dei mondi, sarebbe comunque gradita al mercato. Faccio notare che c'è voluta, lo dico senza polemica come dato di fatto, però c'è voluta una legge, un decreto legge, una decisione del Consiglio dei Ministri di riforma del mondo popolare perché il mondo dei popolari si svegliasse e proponesse una sua riforma. È vero che loro dicono che è anni che è in cantiere, sì, però diciamola tutta, senza lo spauracchio dell'intervento del governo il mondo delle popolari probabilmente questa riforma l'avrebbe tenuta nel cassetto per altro tempo. Infatti non è mai uscita prima, ed è questo il punto più debole di chi rappresenta le banche popolari con un valore superiore agli 8 miliardi di euro, perché riguarda solo queste banche. La riforma che eliminerebbe il voto capitario, cioè non avrei fatto nulla, e adesso dire no, ma eravamo pronti a fare una nostra autoriforma. Sì, la state, diciamo, approntando rapidamente perché siete stati presi tra virgolette in contropiede, e questo è a mio avviso l'elemento, ripeto, più debole. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Visto che parlavamo della borsa, diamo anche l'indice: meno 0,50% Milano, invariata Parigi, meno 0,1% Francoforte, meno 0,56% Londra e più 0,20 il Dow Jones in questo momento. Oltre ai titoli dei popolari va bene Mediaset più 3,5, Buzzi Unicem di nuovo forte più 2,90, ST Microelectronics più 2,80, Fiat più 2,2, Finmeccanica più 1,5, A2A più 1,30%. Chi va male? Tenaris perde il 3%, Snam il 2%, come Saipe, Meni meno 1,60, Terna meno 1,30, Intesa San Paolo meno 1,1, Prismian pure l'1% lo perde Enel, Generali meno 0,80, come Moncler, Unicredit meno 0,70, come Telecom Italia e Enel Green Power. Euro a quota 1,14 sul dollaro, quindi relativamente stabile. Le altre notizie in breve. Dicevamo le altre quotazioni oltre a quelle di borsa. Partiamo come sempre dal petrolio, che oggi è tornato a 50 dollari al barile, 50,8, è leggermente sceso. Questo giustifica, a mio avviso, più che altro come pretesto, il calo di alcuni titoli energetici. Per quello che riguarda invece le notizie internazionali, oggi al di là di Tsipras, adesso ne parleremo, qualcuno vuole più chiaramente le proposte greche? Beh, ne abbiamo parlato a lungo. Comunque, la Grecia dice sostanzialmente: attenzione, noi siamo disponibili a rinegoziare il debito, non usciamo dall'euro, ripaghiamo il debito. Le proposte avanzate da Varoufakis sono sostanzialmente una di avere un'obbligazione perpetua, che vuol dire che sostanzialmente non lo paghi mai. Un'altra è di agganciare, di trasformare il debito greco in obbligazioni indicizzate alla crescita del PIL, il che vuol dire che se la Grecia cresce è in grado di ripagare dei tassi di interesse su questi prestiti. Se la Grecia non cresce non li può pagare. è uno, da questo punto di vista e anche da un punto di vista concettuale è un approccio interessante, perché quello che ha detto Barack Obama, faccio semplicemente notare, è come si fa a chiedere a un paese di ripagare un debito se il paese non cresce. È quello che modestamente cerchiamo di spiegare alla Germania da 3 anni ormai, quando è 2011, 4 anni, porca miseria. E cioè, se tu crei una situazione di recessione, stagnazione per tutti i paesi dell'area euro tranne te stessa, per i tuoi meriti e in parte anche perché diciamo sei diventata l'unico riferimento, e è impossibile che la situazione del debito migliori, il PIL peggiora e i paesi hanno sempre più difficoltà a ripagare il debito. E se tu continui a dare giri di vite, pensiamo alla follia di quel fiscal compact che andrebbe portato in qualche tribunale di giustizia quell'accordo, perché fu una follia vera. Beh, insomma, è ovvio che la situazione continua a avvitarsi peggiore, tu sarai sempre meno in grado di ripagare il tuo debito. Poi oggi c'è un inatteso assist del ministro delle finanze tedesco, il falco Wolfgang Schäuble, che elogia il governo italiano, ha fatto le riforme necessarie e ha detto che anche la Francia sta andando nella giusta direzione e che l'area euro è avviata sul binario giusto per diventare più competitiva. Allora, a voler essere un po' maliziosi, uno può pensare che, vista la paura che Tsipras sta creando anche in Germania, ma non sulle decisioni di Tsipras in senso stretto, ma sul fatto che politicamente sta mettendo la Germania in un angolo, abbiamo già visto una dichiarazione di intenti tra Angela Merkel e Matteo Renzi qualche giorno fa. Forse la Germania ha tutto l'interesse nel tenersi buoni Francia e Italia per non finire veramente in un angolo dal punto di vista dei rapporti di forza, dei rapporti politici, e forse questa dichiarazione di Schäuble così positiva nei nostri confronti va in questa direzione, ma ha a che fare più con la politica estera che con la politica economica. L'agenzia di rating Fitch ha detto sostanzialmente che la crescita italiana a breve termine è fragile, però ha anche fatto un commento sui tempi dell'elezione del nostro Presidente della Repubblica e ha detto: attenzione, la velocità con cui si è arrivati a questa elezione è un buon auspicio, un buon segnale, perché dovrebbe permettere al governo italiano e al Parlamento di concentrarsi sulle riforme istituzionali ed economiche. E proprio a questo rapporto tra, diciamo, i tempi con cui si è arrivati a eleggere il presidente Mattarella, quarta votazione, e l'affidabilità economica di un paese, dicevo, proprio su questo si concentrano i 100 secondi di oggi di Radio 24, Sole 24 Ore con Radio Dimensione Suono. La firma e quindi l'autore oggi è il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. A volte la politica ha un valore economico evidente. È il caso dell'elezione rapida e a largo consenso del nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'agenzia di rating Fitch ha emesso un comunicato poche ore fa in cui dice che proprio l'elezione di Mattarella può favorire le riforme e può anche favorire la crescita economica. Come? Eliminando la cosiddetta volatilità della politica, che inquina da anni il quadro delle aspettative e della visione di futuro nel medio e lungo periodo. Un fatto impalpabile, ma profondamente economico, perché influenza direttamente l'idea di fiducia e attraverso questa gli investimenti e quindi anche l'occupazione. Le agenzie di rating, si sa, valgono quello che valgono e spesso hanno avuto comportamenti ai limiti del conflitto di interessi, ma questa nota di Fitch è importante perché va colta come un segnale di come possono percepire nel mondo l'idea dell'Italia di oggi. Ebbene, quell'idea è che l'Italia è un paese che sta diventando una nazione che rispetta i patti, comincia a fare ordine nella politica e mette a segno qualche riforma ad alto impatto economico, per chi ha osservato per anni il moloch inamovibile dell'Italia. Ora la sfida è quella di portare in porto a pieno proprio le riforme economiche fatte finora e il Jobs Act innanzitutto, che deve ancora rendere operativi 2 decreti attuativi oggi all'esame del Parlamento e si spera che non vengano stravolti dalle beghe dei partiti. Quanto all'economia reale, qualcosa sta cambiando davvero: cresce l'indicatore della fiducia dei consumatori e delle imprese, gli acquisti di beni strumentali balzano con percentuali a 2 cifre. L'Italia può contare poi sull'effetto liquidità della BCE, sull'abbassamento del cambio euro-dollaro, sul calo clamoroso del costo dell'energia legato al ribasso del petrolio petrolio. Siamo di fronte a un dividendo un po' frutto dell'azione riformista e un po' frutto del caso. C'è molto da fare ancora, naturalmente, soprattutto per abbattere il debito, tagliare la spesa pubblica e ridurre la disoccupazione. Sarebbe però un delitto sprecare quel dividendo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Abbassare tutte più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, drag e più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati, drag e più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Drag e più. Allora, da dove partiamo oggi? Beh, partiamo dalla Sicilia. Chiaramente non c'entra nulla il fatto che il neopresidente della Repubblica sia siciliano, ma visto che conosce, ahimè, molto bene, anche per vicende personali che riguardano l'uccisione del fratello Piersanti Mattarella, la Sicilia, magari un giorno interverrà anche su questo. Perché lo dico? Perché da un lato abbiamo un nuovo smottamento del terreno sottostante sul viadotto Scorciavacche della statale 121 Palermo-Agrigento. Qualcuno se lo ricorda? Inaugurato a Natale, è crollato a Capodanno, c'è un viadotto che risente molto delle festività, però oggi non capiamo perché. Sulla vicenda era intervenuto anche il Premier Renzi, che su Twitter, tanto per cambiare, aveva scritto: viadotto Scorciavacche Palermo, inaugurato il 23 dicembre, crolla in 10 giorni. Ho chiesto a ANAS il nome del responsabile, pagherà tutto, l'hashtag è finita la festa. La procura di Termini Imerese aveva aperto un'inchiesta. Il nuovo smottamento è dovuto alle forti piogge dei giorni scorsi, fanno sapere dalla procura. Le polemiche avevano coinvolto l'ANAS e il suo presidente Pietro Ciucci, secondo cui la difesa di Ciucci era stata veramente debole. A parte che Ciucci lì da una vita, non niente di male, ma insomma, perché poi ha fatto l'ANAS, poi è andato a fare la società sullo stretto del ponte di Messina e poi è tornato all'ANAS, magari, ok, no? Non è che solo la politica è fatta di caste. Comunque Ciucci disse: il tratto di strada è stato aperto come prevedono le norme, con un certificato di agibilità rilasciato dal direttore dei lavori da un collaudo provvisorio eseguito da ingegneri nominati dall'ANAS. Il collaudo definitivo si fa dopo la conclusione. Vabbè, Ciucci, diciamo una cosa, ne risponde di sta cosa oppure no? Tutto il resto, le chiacchiere stanno a zero. Crolla un viadotto, ricrolla perché piove. Cosa, adesso in Sicilia decidiamo che non deve piovere più? No. Poniamoci anche questo dubbio. L'ANAS fa un viadotto solo a patto che in Sicilia non piova, va bene? Restiamo in Sicilia. Allora, perché alcuni di voi ci hanno detto: lei se la sta prendendo molto con i vitalizi degli ex consiglieri lombardi, ma non parla di quelli delle altre regioni. Allora, noi ce la prendiamo con ce la prendiamo col fatto che si sia arrivati in Lombardia grazie all'iniziativa dell'ex consigliere Luigi Corbani, a creare l'associazione tipo Reduci, l'associazione degli ex consiglieri che si oppone estremamente al taglio del 10% in media dei vitalizi. Detto questo, in Sicilia per pagare i vitalizi degli ex deputati regionali l'Assemblea sborsa ogni mese 1,5 milioni di euro. Sono 18 milioni di euro l'anno. È inutile che mi diciate la pensione. Non è un lavoro, non stai versando i contributi. La pensione è, lo ha stabilito, se non ricordo male, anche una sentenza, è un differimento del tuo salario. Cioè l'azienda preleva qualcosa e un domani avrai la pensione. Questi sono consiglieri che hanno fatto politica per un mandato, per due mandati, per tre mandati. Teoricamente avrebbero dovuto avere un lavoro e teoricamente avrebbero dovuto tornare in quel lavoro. Poi alcuni hanno fatto della politica il loro lavoro, ma vabbè. Allora, è un'altra cosa. È diverso se un'azienda o il mio datore di lavoro mi preleva ogni mese una quota dal mio stipendio perché poi me li darà in forma di pensione. Comunque, 18 milioni l'anno, perché viene erogato l'assegno a 314 tra ex deputati regionali e i loro familiari. Tutti hanno maturato il diritto al vitalizio prima dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento, che ha fatto anche l'Assemblea regionale siciliana lo scorso nel febbraio del 2012. Il vitalizio infatti è adesso abolito dal 1 gennaio del 2012. Sono 195 più 119 familiari che percepiscono l'assegno di reversibilità a seguito della morte dell'ex deputato regionale. Gli assegni arrivano fino a 10.000 euro al mese e già questo fa specie. Però poi ci sono, se devo dare i nomi perché mi dispiace, ci sono tra questi 314 beneficiari 20 ex parlamentari che già ricevono un vitalizio dalla Camera o dal Senato. Allora, quando io poi vedo ospiti nei vari programmi, vabbè, voglio star zitto, ma insomma, persone che forse dovrebbero prima spiegarci come hanno gestito le loro cose, penso, ho visto Renata Polverini intervistata, dunque ci spiego come ha gestito la Regione Lazio con tutti gli scandali che ci sono stati. Uno si deve anche ricordare, vogliamo cambiare questo paese, cambiare verso, dice Renzi, iniziamo a farlo, che quando vedi uno in televisione capisci da dove viene. Perché lo dico? Allora, Nicola Bono, ex deputato, tutto legale, non c'è niente di illegale, mi chiedo solo se sia opportuno prendersi il vitalizio come deputato o senatore del Parlamento e il vitalizio come deputato della Regione Sicilia. Nicola Bono, ex deputato di Alleanza Nazionale, classe 1952, riceve dalla Regione Sicilia 4.227 euro e altri 5.000 euro dalla Camera dei Deputati. Nicolò Cipolla, storico esponente del PC, classe 22, vabbè, ho capito, ma riceve dall'ARS, dalla Sicilia, 6.800 euro e al Senato 4.400 euro. Emanuele Macaluso, il mitico migliorista del PC, tutto regolare, ha un vitalizio di 6.000 euro dalla Regione Sicilia e un altro da 6.900 dal Senato della Repubblica. Vladimiro Mirello Crisafulli, ex senatore, vitalizio da Palazzo Madama di 2.600 euro e poi quello dell'Assemblea Siciliana da 6.300 euro. Poi il vice ministro Sergio D'Antoni, ex sindacalista, da Palazzo Normanni riceve 3.100 euro dalla Regione Sicilia e ne riceve dalla Camera 3.958. Adesso vado avanti, poi mi fermo. Perché? Perché ci sono dei miti anche, no? Allora, prendiamo il sindaco di Mazara del Vallo, Niccolò Cristaldi. Ha lo stipendio da sindaco, il vitalizio dell'Assemblea Regionale Siciliana, 8.700 euro. Ha fatto 4 legislature nella Regione Siciliana. E poi ha anche 2.800 euro dalla Camera. Non so. Fai il sindaco di Mazara del Vallo. Tutto bene. Anche l'ex senatore Pino Firarello, oggi sindaco di Bronte, al vitalizio del Senato pari a 5.600 euro, quale somma quello dell'Assemblea regionale siciliana da 5.000 euro e poi lo stipendio da sindaco. Tutto bene. L'ex ministro Calogero Mannino, riceve 5.000 euro dall'Assemblea regionale siciliana e 5.600 euro dal Senato. L'ex assessore senatore Parisi, Francesco Parisi, 8.900 euro dalla Regione Sicilia come vitalizio, 4.200 dal Senato. Alfredo Galasso, vitalizio e anche docente universitario dall'Assemblea Regionale Siciliana, 3.000 euro, secondo assegno dalla Camera per 2.100. Ugo Grimaldi, ex deputato, 3.900 euro dalla Camera e 3.100 euro dall'Assemblea Regionale Siciliana. Angelo La Russa e anche l'ex presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Guido Lo Porto, vitalizio di 4.700 euro dalla Regione, assegno del Senato da 5.900 euro. E poi doppio vitalizio anche per Nicolò Nicolosi, Pietro Pizzo, Giovanni Ricevuto. Le new entry, allora, l'ex senatore Domenico Mimmo Sudano, 4.900 euro dall'Assemblea Regionale Siciliana e 2.300 dal Senato. Rudy Maira, doppio contributo, 6.000 euro complessivi. Vabbè. Tutto, lo dico perché poi tutti hanno sempre pronto l'avvocato, tutto regolare, tutto legale, forse non così opportuno o forse ci si potrebbe anche mettere mano e non mi dite che sono diritti acquisiti. Erano diritti acquisiti anche quelli degli italiani che si sono visti cambiare 3 volte l'età pensionabile, il modo in cui si va in pensione. Quindi non diciamo, visto che si parlava della Sicilia, non diciamo minchiate. Mi dispiace, Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Lo chiedevate sui vitalizi. Allora, adesso parliamo anche della Grecia, dell'incontro tra Varoufakis e Draghi, dell'incontro tra Tsipras e Schulz. Però chissà perché, quando parliamo dei vitalizi, delle spese della pubblica amministrazione, degli sprechi degli enti locali, c'è sempre qualcuno che scrive: ma questo cosa c'entra con un programma di economia? Si risponde, faccio come Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta. E qualcun altro che dice: ah, ma questi sono discorsi da bar. Certo, il bar dove va lei, però, perché magari ha tempo da andarci quando lavora. Per favore, c'è sempre qualcuno che si picca. 18 milioni all'anno per una regione come la Sicilia di costo della sua assemblea sono un tema economico oppure no? Quando poi tagli tutto il resto, chiedo, sono un tema economico oppure no? Attendo risposta. Allora, il tour greco, neanche i Rolling Stone, ha successo. Dove va Tsipras con Varoufakis? Viene accolto, nessuno ha il coraggio, soprattutto in Italia, in Francia, di dire no, attento Tsipras, perché tutti sperano che sia un po' il cavallo di Troia per far cambiare idea. Oggi Varoufakis ha incontrato Mario Draghi e domani incontrerà il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, peccato non poterci essere fisicamente. Mentre oggi Tsipras ha incontrato il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e poi altri esponenti, poi è volato a Parigi per vedere il presidente François Hollande. Il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz dopo l'incontro con Tsipras. A prime minister of Greece traveling around in Europe. Il primo ministro greco viaggia per incontrare i governi e le istituzioni europee ed è un primo ministro che sta lottando per avere la cooperazione europea e non la separazione della Grecia dall'Europa. Questo è un segnale molto forte e molto positivo. Io do il mio pieno sostegno e sono molto ottimista dopo l'incontro di oggi. Entrambe le parti stanno cercando una comprensione reciproca. I paesi dell'Eurogruppo, l'Unione Europea nel suo insieme e il nuovo governo greco troveranno un'intesa sulla base del programma che il governo ha per i prossimi anni e noi dovremo trovare vie per un compromesso. Il primo ministro sta lottando per il suo paese e nel modo in cui lo sta facendo penso che sia un premier che offre il dialogo, che è la base per trovare il compromesso e soluzioni costruttive. I cittadini greci hanno pagato il conto della crisi negli ultimi anni e ora è il momento che chi ha portato i soldi all'estero contribuisca alla soluzione dei problemi. Il governo sta lavorando in quella direzione e può contare al 100% sul sostegno del Parlamento e di tutte le istituzioni europee. Davanti a noi c'è un periodo difficile, non abbiamo ancora una soluzione, ma credo che il premier greco, che sta viaggiando tanto, stia lavorando per la cooperazione e non per la separazione. E questa è la direzione giusta. Allora, in collegamento da Francoforte, Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Eccoci. E anche in collegamento invece da Bruxelles, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, Adriana Cerretelli. Buonasera anche a te, Adriana. Buonasera. Allora, ma che allegria, ma che succede nella Mitteleuropa? Tutti un po' tristi. Allora, siamo allegri noi qua, forse perché vediamo le cose dalla periferia, come si dice tra Francoforte e Bruxelles. Adriana, è una nostra sensazione o qui, insomma, per essere un po' maliziosi, mi sembra che vari paesi, poi faremo ascoltare anche Hollande, incensino e non vadano contro a Tsipras perché forse toglie un po' di castagne dal fuoco, cioè paradossalmente non ha detto non vuole uscire dall'euro, vuole pagare il debito ma sotto un'altra formula che è quella che ha ricordato Barack Obama tre giorni fa. Insomma, fa comodo sto Tsipras o siamo troppo maliziosi? Io penso che faccia comodo prima di tutto perché l'uscita della Grecia dall'euro non sarebbe un evento indolore e gli fa comodo che diciamo, la vittoria di Tsipras non porti sovversione e destabilizzazione in un'Europa che, non dimentichiamoci, ha anche altri Siriza nei rispettivi paesi, dunque i vari Podemos, i vari movimenti antieuropei ci sono e si potrebbero moltiplicare, quindi il motivo per cui tutti si preoccupano di risolvere il problema, mi sembra che sia un interesse collettivo, visto che la moneta unica impone interdipendenza e interessi collettivi. Detto questo, è chiaro che il messaggio di Tsipras, che dice rilanciamo la crescita, cerchiamo di rimettere in marcia l'Europa economica, sociale e politica, è certamente un messaggio in piena sintonia con quanto Italia e Francia predicano da anni inascoltati, perché come è noto invece le priorità dei paesi nordici e soprattutto della Germania sono altre, sono prima risanamento e poi la crescita seguirà. Quindi qui c'è il tentativo di invertire i termini del problema e il fronte mediterraneo, compresa la Francia ed esclusa la Spagna invece che è più su una posizione tedesca, diciamo ripete quello che da sempre ha detto, e Tsipras è sicuramente una leva da usare, però direi che la priorità è il problema greco. Ecco, però tu sul Sole 24 Ore di ieri, così te frego perché sapevo che eri pronta a criticarmi, hai scritto Atene e Berlino condannate a un'intesa. Come vedi, me la sono legata al dito. No, a parte gli scherzi. Atene e Berlino, Atene deve per forza trovare un'intesa, è ovvio. Berlino era fino adesso, diciamola tutta, poi sentirò anche Alessandro Melli sul fronte BCE e anche sul fronte Germania. Berlino in questo momento era meno sicuro o meno certo che dovesse cercare un'intesa. In questi anni, dal fiscal compact in poi, Berlino ha sempre detto si fa così, punto e basta, nel senso non ha mai mostrato una volontà di conciliare niente, al di là di alcune frasi di circostanza. Ora, la piccolissima Grecia, il 2% del PIL e quant'altro, non è che da lì rischia veramente di mettere in un angolo anche il governo della Merkel? Finché Atene ha condannato a trovare un'intesa, lo capiamo anche noi. Su Berlino forse sembra un po' Davide Golia, no? È sicuramente Davide Golia, però in questo caso Davide Golia non hanno interesse a tirarsi sassate, nel senso che se la Grecia partisse per la propria strada facendo tutte le scemenze che potrebbe fare, volendole fare, lasciandosi trascinare dal populismo eccetera eccetera, inevitabilmente anche l'area euro ne risentirebbe, i mercati tornerebbero probabilmente a risvegliarsi, la destabilizzazione che partisse dalla Grecia proprio per le ragioni anche politiche di cui dicevo quasi certamente potrebbe contagiare altri paesi, e nemmeno per la Germania sarebbe un'allegria, senza contare che la Germania è vero che è un paese che ha dei conti più che in ordine, addirittura bilancio in pareggio raggiunto un anno prima del previsto eccetera eccetera, però è anche vero che pur nonostante tutte queste virtù ha un problema di crescita, nel senso che è una crescita rachitica quella della Germania, anche se è una crescita, mentre per esempio in Italia la crescita non c'è da 3 anni. Quindi anche la Germania, non ci dimentichiamo che la Cina, i paesi emergenti stanno rallentando, quindi anche l'idea dell'interesse più globalizzato della Germania, che è l'economia più globalizzata d'Europa, in quei mercati si cresce meno, in Europa si cresce quasi a zero, insomma anche la Germania ha interesse a rilanciare in un qualche modo l'Europa, non ha poi interesse a far saltare l'euro perché è la maggiore beneficiaria finora dell'euro. Quindi ci sono una serie di ragioni obiettive che fanno ritenere che certamente non sulle posizioni greche attuali, ma su un compromesso più ragionevole che contemperi le esigenze di entrambi i partiti in contesa, io credo che questo sia nell'interesse di tutti, perché nessuno ha interesse alla destabilizzazione. Allora, vorrei sentire prima del traffico Alessandro Merli da Francoforte, in questo caso più sulla parte tedesca, ma anche poi arriviamo all'incontro con Draghi oggi di Tsipras. Se sei d'accordo, a me continua a sembrare che la novità è che questa volta l'accordo, l'essere condannato a un accordo, condannato a un'intesa, sia anche la Germania, non solo la Grecia. Però, Alessandro. Ma intanto non c'è ancora nessun accordo e tutto è rinviato all'Eurogruppo, se non sbaglio, dell'11 febbraio prossimo. Sicuramente fino all'ultimo i tedeschi, non ho dubbio che lo farà Schäuble domani nell'incontro con Varoufakis, ricorderanno ai greci gli impegni che hanno preso, che adesso vogliono disattendere, eccetera. Però non c'è dubbio anche, come diceva Adriana, che non è nell'interesse dei tedeschi provocare una crisi come quella che sarebbe probabilmente generata da una recrudescenza, da un'escalation della crisi greca, cioè un'uscita della Grecia dall'euro, che potrebbe voler dire coinvolgere gli altri paesi della cosiddetta periferia. Quindi questo è sicuramente una questione che i tedeschi hanno ben presente, fatto salvo che fino all'ultimo credo manterranno la loro linea, una linea abbastanza dura. Oggi la signora Merkel ha detto i greci sono isolati, nessuno pensa che possano fare quello che dicono di voler fare. Su chi è più isolato tra la Germania e la Grecia, permettimi di fare la battuta, è una bella gara, eh? Perché non vedo la Germania piena di partner pronti. Restate in collegamento, ho un minuto di traffico, perché poi vorrei capire invece se le proposte avanzate da Tsipras in questi giorni di tour europeo sono solo tattica e melina per arrivare poi a un accordo che si baserà sull'allungamento della scadenza, oppure c'è qualcosa di vero, perché la proposta di dire ok, noi trasformiamo il debito in obbligazioni che paghiamo, che sono indicizzate alla crescita del paese, quindi se il paese cresce quello è il tasso di interesse, se non cresce non ti posso dare degli interessi, è una linea molto simile a quanto ha detto Obama sia prima del Super Bowl, quindi nel momento di massimo ascolto in America, sia presentando la legge di bilancio degli Stati Uniti. Allora, Adriana Ceretelli prima, rapidamente poi Alessandro Merli, è solo tattica, pretattica questa offerta di ristrutturare il debito greco in quel modo, Adriana? No, io penso che sia un tentativo da parte loro, che poi questo tentativo possa andare a buon fine sarà tutto da vedere. Io non credo, cioè dal massimalismo delle diciamo parate in campagna elettorale siamo scesi a una piattaforma negoziale da parte della Grecia, e naturalmente non penso che i greci stessi si illudano che certe cose che chiedono possano essere accettate, però ovviamente devono alzare un po' l'asticella, perché altrimenti sarà difficile arrivare ad un accordo. Nello stesso tempo i no tedeschi diventeranno dei ni e si cercherà di diciamo cedere al minimo da entrambe le parti, e su quello io spero che in qualche modo si raggiunga un accordo. Alessandro Merli, anche su questo e anche sull'incontro, diciamo, Varoufakis-Draghi, prego. Sì, sembra c'è un po' di improvvisazione anche da parte greca, nel senso che dalla linea durissima della campagna elettorale poi ha prevalso, come diceva Adriana, così un primo abbozzo di posizioni negoziali che però sono cambiate, diciamo, di ora in ora da quando il governo si è insediato, quindi è anche difficile dire che cosa sono queste proposte greche. Alcune sono francamente abbastanza ridicole, cioè l'idea che la BCE prenda in cambio dei titoli greci che ha già, dei titoli perpetui, sì, vabbè, quella... è folcloristica, a parte il fatto che va contro i trattati della BCE. L'allungamento delle scadenze è una cosa più realistica, ma del resto su questo c'era già una certa disponibilità, direi da fin da prima delle elezioni greche. Non risolverà il problema della Grecia, nel senso che comunque la Grecia già oggi con i periodi di grazia, cioè in cui non pagherà niente, e i tassi di interesse che gli vengono praticati sugli aiuti europei, tutto sommato non ha un problema di servizio del debito. Il servizio del debito della Grecia è più o meno equivalente a quello della Francia, quindi non è quello il vero problema della Grecia. I titoli indicizzati alla crescita non hanno propriamente un gran buon nome, l'ultimo paese ad utilizzarli è stata l'Argentina. L'Argentina non è di solito un debitore portato ad esempio nella comunità internazionale, oltretutto gli argentini, come già i greci con il debito pubblico, falsificavano abbondantemente i dati su cui poi si basavano i pagamenti di questi interessi legati alla alla crescita. L'altra cosa, il riferimento a Obama è abbastanza significativo dal punto di vista geostrategico. Gli europei non si sono mai dimostrati in tutta questa crisi molto inclini a farsi consigliare dagli americani, anche quando forse sarebbe stato opportuno che lo facesse, quindi non mi sembra decisivo. In una battuta, da quello che tu hai capito, Draghi insomma ha avuto un incontro di circostanza con Varoufakis, lo stile è un po' diverso, non è tanto la Spock Varoufakis, ma non è tanto la camicia fuori, proprio lo stile è essere molto diverso. Ma l'incontro com'è andato? Draghi è molto istituzionale, come sempre. L'incontro, a sentire Varoufakis, è andato fantasticamente. Vabbè, è stato capito. Un scambio fruttuoso, un eccellente incontro, un incoraggiamento, eccetera, eccetera. In realtà, poi sia Varoufakis che Draghi, in una nota che ha fatto circolare successivamente, hanno fatto capire che Varoufakis si è trovato di fronte alla realtà, cioè ci sono delle cose che la BCE può fare e altre non può fare, non vuole fare e non farà, e quindi diciamo questo limita notevolmente il margine di manovra, le possibilità di quello che poi la Grecia potrà fare. Bisogna tenere conto che ci sono due aree in cui la BCE è determinante, anche se ovviamente non vuole prendere nessuna decisione direttamente prima dell'Eurogruppo dell'11, quindi lascia ai politici questa decisione finale. Però le due aree sono: una, la possibilità di presentare titoli greci in garanzia da parte delle banche è legata al fatto che ci sia un programma, quindi il programma i greci non lo vogliono più. Io credo che Draghi abbia ricordato a Varoufakis che senza programma non c'è garanzia, certo. Loro staccano la spina dal programma e la BCE stacca la spina dall'accettazione dei titoli greci come collaterale. L'altra cosa che segue a questa sono queste forniture di liquidità di emergenza, il cosiddetto ELA, che la banca centrale greca fa alle banche greche, è fatto dalla banca nazionale, però poi deve essere autorizzato costantemente, o quantomeno esserci un silenzio assenso ogni 15 giorni da parte del Consiglio della BCE. Nel momento in cui il Consiglio della BCE ravvisa che o la Grecia non fa quello che dovrebbe fare, oppure che le banche greche da illiquide sono diventate insolventi, pure stacca la spina. Siccome però questo dovrebbe praticamente, vorrebbe praticamente dire che la Grecia esce dall'euro, Draghi è una decisione che non vuol prendere. Allora, grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte. A chi continua a scrivere sui vitalizi, un programma economico deve occuparsi di economia e non di vitalizi e pensioni, questo lo dice lei. Rispondo con quello che mi scrive un ascoltatore: la regione Sicilia taglia vergognosamente gli assistenti agli studenti diversamente abili e perfino a quelli autistici. Un addetto qualificato costa meno di 1000 euro al mese, intanto spende 18 milioni di euro all'anno per i vitalizi. Caro ascoltatore, c'entra o non c'entra con l'economia? Avesse un figlio autistico o disabile, forse cambierebbe idea. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso ci occupiamo non più di Tsipras, ma lo facciamo anche ascoltare Tsipras, quello che ha detto. Allora, a chi dice, ma se uno ha il riferimento è alla polemica che fanno alcuni, lei fa denunce sugli sprechi delle regioni, dei comuni, delle province, la pubblica amministrazione, ma poi cosa cambia? Ragazzi, cosa devo fare? Intanto, secondo me, un giornalista ha il dovere di raccontare alcune cose, poi faccio giornalista, non faccio il politico. Se qualche politico ascolta, così come rivolgo e rigiro la domanda, meglio che qualcuno lo dica o che stiamo tutti zitti, visto che sennò mica prendiamo in mano i forconi, esiste il voto e quant'altro. Detto questo, e mi sembra molto speciosa, molto diciamo pelosa la critica, ah, tanto non cambia niente, dillo, quindi il messaggio cos'è? Non ne parliamo perché tanto non cambia niente. Ma sembra un pochino la coda di paglia, attenzione a non pestarla. Allora, invece e noi ci limitiamo non a denunciare, non stiamo facendo denunce, stiamo raccontando quello che scopriamo, raccontiamo quello che scopriamo in modo che tutti possano farsi un'idea. Mi dice un ascoltatore, ho capito, però tanto cosa cambia se uno ha un figlio disabile o autistico? No, forse non ha capito la denuncia, cioè c'erano alcuni ascoltatori che dicevano ma cosa c'entrano questi temi con l'economia? Allora, siccome la regione Sicilia spende 18 milioni di euro l'anno per pagare i vitalizi a ex consiglieri, e alcuni di questi sono pure anche ex deputati e quant'altro, e qualcuno sosteneva che questa non è economia, non c'entra con l'economia, abbiamo fatto notare che ci scrivevano altri ascoltatori che nel frattempo la stessa regione Sicilia ha ridotto moltissimo tutti i contributi per l'assistenza a ragazzi disabili e autistici, quando un operatore costa sostanzialmente sui 1000 euro al mese. Allora, secondo me, con 18 milioni di euro, ma immagino che tutti i consiglieri ex consiglieri dell'Assemblea regionale siciliana, dopo questo appello, correranno a dire che rinunciano al vitalizio, tanto un lavoro ce l'hanno, no? Non è che hanno fatto il consigliere perché gli mancava un lavoro. Allora, hanno un lavoro, avranno una pensione come tutti, che è un posticipare i guadagni già fatti per avere una pensione, e rinunceranno a parte del vitalizio a favore magari di un contributo che può andare alle famiglie siciliane che, quanto a soglie di povertà, non scherzano, che hanno figli disabili, figli non autonomi, figli autistici. Vediamo se è così, vediamo se c'entra con l'economia. E quanti operatori ti paghi in un anno con 18 milioni di euro? Allora, andiamo avanti, non voglio arrabbiarmi. Sentiamo Tsipras, la rockstar Tsipras. I'm very optimistic that we'll try to do our best. Sono molto ottimista e fiducioso che faremo del nostro meglio per trovare un accordo reciprocamente accettabile per il futuro in comune. So molto bene che la storia dell'Unione Europea è fatta di disaccordi, ma alla fine di compromessi e di accordi. Noi abbiamo la volontà di lavorare per un accordo reciprocamente accettabile, un compromesso. Il nostro obiettivo è che siano rispettate la sovranità in Grecia e il mandato che abbiamo ricevuto dalla nostra gente. Allo stesso tempo, noi rispetteremo le regole dell'Unione Europea. Vogliamo correggere il quadro delle regole europee, non vogliamo smantellarlo. Crediamo che all'interno di queste regole sia possibile trovare una valida e comune soluzione per tutti. Dopo gli incontri di oggi sono molto ottimista. Ovviamente non abbiamo ancora un accordo, ma stiamo andando nella giusta direzione per raggiungerlo. Allora, andiamo alla borsa, fermo restando che se tutti gli ex consiglieri siciliani, oggi alcuni ascoltatori me l'hanno proprio fatta girare, se tutti gli ex consiglieri siciliani delle regioni rinunciassero al vitalizio, 18 milioni di euro l'anno, un operatore circa per assistere bambini e studenti disabili costa circa 1000 euro al mese, praticamente avremmo, immaginando che tutti i giorni, è chiaro che dici 18.000, no, devi dividere per 365, e il risultato è, vediamo chi lo sa. Va bene, adesso non si può lavorare così. La borsa, no, sto vedendo delle cifre che stanno arrivando agli sms. Allora, meno 0,33%. Allora Michele, lasciamo stare le banche popolari oggi, perché ne parliamo fra un attimo. Dacci come Radio Corriere sulle 24 ore il resto del mercato. Più 0,40 Parigi, più 0,20 Francoforte, meno 0,17 Londra, più 0,30 l'America. Allora, al di là delle banche popolari, i petroliferi. Sì, petroliferi. petroliferi oggi, come abbiamo visto, sono andati male. Del resto il petrolio a New York sta perdendo oltre il 5%, sebbene rimanga sopra la soglia dei $50 al barile. Ieri comunque avevano corso molto, così oggi sono andate giù, meno 1,4% Eni, ma meno 1,9% Saipem e meno 3% Tenaris. E questo per quello che riguarda appunto i titoli. Tra l'altro oggi abbiamo visto un po' in rispolvero Lusso, Luxottica più 1%, Ferragamo più 1, Jux più 0,90%, citavi Tenaris e Snam, appunto meno 3% Tenaris, meno 2 Snam, Saipem meno 2, Eni appunto meno 1,40%. Prego, per quanto riguarda il lusso, è vero, si è risvegliato, Ferragamo più 1%, Tod's più 0,88%, ci sono alcuni fattori, oltre ovviamente all'euro che rimane debole. Ieri a borsa chiusa il primo gruppo al mondo del lusso, ossia LVMH, ha annunciato conti migliori delle attese, ha registrato un fatturato record pari a 30,6 miliardi di euro, appunto andando meglio delle attese, accelerando soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, e quindi questo è stato, diciamo, di buon auspicio per tutto il comparto. In più oggi in Germania anche Hugo Boss ha annunciato conti migliori delle attese, fattura oltre 2 miliardi, anche in questo caso nel 2014 il gruppo ha vantato una crescita, e dunque ripeto, cioè, finisce per essere di buon auspicio per tutto il settore, che alla fine, nonostante la crisi in Europa, continua a macinare guadagni. Allora, gli altri titoli per quello che riguarda il mondo bancario non coinvolti con il mondo delle popolari: Unicredit meno 0,70%, Generali meno 0,70%, Intesa San Paolo meno 0,90%, le popolari, ma adesso ci arriviamo, invece in netta crescita, Mediaset più 3,60%, Eleonora. Mediaset si è risvegliata sin da questa mattina, e questo soprattutto grazie alle dichiarazioni del direttore finanziario Mario Giordano, secondo il quale quest'anno la raccolta pubblicitaria invertirà rotta e dopo il calo del 2014 segnerà invece un progresso tra il 2 e il 4%. In più ci sono buone notizie anche dalla Spagna, ricordiamo che Mediaset detiene Mediaset Spagna, e per il mercato generale spagnolo ci sono indiscrezioni in base alle quali nel gennaio di quest'anno si è registrato un balzo della pubblicità del superiore al 10%. Allora, no, sto sorridendo perché stanno scrivendo decine di sms. Allora, vi do le risposte, è abbastanza facile. Sarebbero, immaginando 1000 euro lordi per operatore, il tema ai bambini disabili e gli studenti disabili in Sicilia, sarebbero con lo stipendio di un anno dei vitalizi circa 1500 al mese, assistenti operatori per aiutare gli studenti. È ovvio che poi qualcuno mi scrive: sì, attenzione che però i soldi non sono, possono essere lordi il costo di più. Vabbè, immaginiamo anche che fossero il doppio, saremmo a 750 studenti assistiti in più ogni mese. Se vi sembra poco, per dare vitalizi a chi ha fatto il consigliere all'Assemblea regionale siciliana, che vanta un buco di deficit stratosferico a 18.000 dipendenti più altri 21.000 precari. Cioè, non è che hai lavorato, capisci, per la carta costituzionale. Se mi fate continuare così, fra un po' parte la denuncia. Eleonora Micheli, scusami, ti ho interrotto. Vorrei chiudere su Atlantia, grazie. Sì, Atlantia in questo caso, diciamo che è stata tolta dalla lista dei titoli preferiti di Goldman Sachs. Comunque i titoli sono andati su dello 0,2%, del resto anche la banca d'affari rimane positiva per più fattori. Innanzitutto il calo della benzina potrebbe portare a un aumento del traffico, che rimane comunque del 10% al di sotto del picco del 2007. Poi ricordiamoci anche l'appeal speculativo, che Atlantia potrebbe vendere, come detto anche dai manager del gruppo, la quota di ADR. Insomma, le prospettive per l'azienda sono positive. Allora, migliori e peggiori in assoluto. Per quello che riguarda i migliori, Meridie più 21%, Industria Innovazione più 17%, Richetti più 13%. E qui iniziamo con le popolari: Popolare, Etruria e Lazio, quella dove c'è il papà della Boschi che è vicepresidente, così anticipo gli sms. Mondo TV France meno 10%, Visibilia meno 5,90%, TAS meno 4,40%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. questa cosa di quanti operatori per aiutare gli studenti con diverse abilità potrebbero essere pagati dai vitalizi vi sta entusiasmando? No, sono 1500 al mese, non all'anno, immaginando che costino 1000 euro l'ordine. Siccome costano di più, siamo anche scesi a una cifra diversa. E ancora c'erano altri messaggi, però non posso più continuare su questo. Andiamo. Ah sì, ce n'è uno importante però. Siccome chi aiuta i genitori di un bambino o di un ragazzo, di uno studente che ha bisogno di assistenza, permette, scrive giustamente un'ascoltatrice, permetterebbe anche a questi genitori di lavorare meglio, magari le mamme non dovrebbero prendersi tutti i permessi con la 104, cioè ci sarebbe comunque una ricaduta economica, o potrebbero andare al lavoro e invece non lo fanno, o potrebbero dedicarsi a un altro tipo di lavoro. Ecco, no? Per pagare i vitalizi agli ex consiglieri regionali della regione Sicilia, come della regione Lombardia. Capanna, facciamo le barricate su questo? Traffico. No, non c'è traffico. Oggi in regia. Sì, vabbè, oggi è andata così. Non c'è il traffico, allora ci colleghiamo con gli Stati Uniti. Adesso il traffico salta, però, ve lo dico. C'è Luigi Zingales. Buonasera, professore. Buonasera. La diretta, il bello della diretta, diceva qualcuno. Allora, il premier Matteo Renzi ieri sulle banche popolari sono pronto a mettere la fiducia, nel senso che le banche popolari oggi hanno fatto più 4% la Pop Emilia Romagna, ha fatto il Banco Popolare più 3% e la Pop Milano più 1,70%. È terminato da pochissimo il consiglio di amministrazione delle Asso Popolari. Hanno detto non c'è nessuna frattura, l'ha detto anche il presidente della Popolare di Vicenza Zonin. Non c'è nessuna frattura nelle Asso Popolari, non ci sono divisioni, avanzeremo una nostra proposta. Renzi ieri sulla riforma delle popolari. Il Parlamento se lo può migliorare come sempre, ma come dire, non vedo alcun elemento per bloccare il principio di fondo, e cioè che si supera il principio del voto capitario, si va verso la trasformazione in SPA, e su questo io sono pronto anche a mettere la fiducia. Perché siccome è un provvedimento che ci dà il senso del cambiamento in Europa e che toglie le banche ai soliti noti per darle regole chiare di mercato internazionali, non facciamo scherzi. Allora, ricordo, per chi si fosse perso le puntate precedenti, il governo ha deciso di levare il voto capitario, una testa un voto, la soglia al possesso di azioni dell'1%, rende più contendibili le popolari. Professor Zingales, il fatto che adesso si stiano affrettando le popolari a fare la loro proposta un po' puzza, nel senso che vuol dire che metti in piedi una proposta perché sei stato preso in contropiede, o no? Sicuramente, cioè le popolari, soprattutto parliamo delle grandi popolari, sono uno scandalo da tanto tempo e ci sono state tutte le pressioni possibili e immaginabili perché questo scandalo venisse a meno, ci fosse più trasparenza, ci fosse più dinamicità, eccetera, eccetera, e hanno perso il treno. Oggi si trovano ad affrontare una legge che secondo me, sebbene giusta nel risultato, è un po' violenta, cioè per una liberale come me un imporre un cambiamento ex legge è un po' violento. Io probabilmente avrei cercato di ottenere stesso risultato con un modo un po' più gentile, però fondamentalmente un po' brusca, dice lei. Ha ragione. Cioè allora, mi faccia difendere le banche popolari. Dicono sostanzialmente: attenzione, noi abbiamo un rapporto particolare col territorio. Certo, gli si fa notare che questa legge riguarda solo chi ha più di 8 miliardi di patrimonio e molte sono quotate in borsa, però un rapporto particolare col territorio e soprattutto è un favore fatto alle banche, ai grandi colossi nazionali o internazionali, così vengono a fare shopping in Italia, ed è un favore fatto al Monte dei Paschi e alla Cassa di Risparmio di Genova, perché serve salvare queste due banche. Che risponde? Guardi, io non lo so se sia un favore fatto a Montepaschi o Cassa del Risparmio di Genova. Indipendentemente da questi, io non sono certo uno a favore del Montepaschi. La situazione era insostenibile, cioè io l'ho scritto sul Sole 24 Ore, mi sembra addirittura nel 2011, quando ci fu lo scandalo alla Banca Popolare di Milano, cioè queste banche non erano in grado di soddisfare i requisiti decenti di gestione di Banca Italia, non avevano un'allocazione della promozione interna che il manuale Cencelli era meritocratico in confronto e non si adattavano alla realtà nuova. Ovviamente in un mercato perfettamente competitivo non abbiamo bisogno di imporre nessuna legge, nessun cambiamento. Purtroppo il mercato bancario non è competitivo, secondo me la Banca d'Italia è stata fin troppo generosa perché avrebbe potuto commissionare parecchie di queste e adesso si trovano di fronte, come dico, a una soluzione violenta, però se la sono meritata tutta. Cioè il rapporto col territorio va benissimo per le piccole banche eccetera eccetera, queste banche sono grandi, il rapporto col territorio non ce l'hanno, o meglio ce l'hanno come un'altra banca. Cioè voglio dire, quando tu sei la Popolare di Milano o il Banco Popolare, io onestamente la differenza, o UbiBanca, tra te e Intesa San Paolo e Unicredit non riesco a vederla così tanto. Cioè sei quotata, sei grande, dirmi che tu hai un maggior legame con non so, Lombardo Veneto rispetto a Intesa San Paolo, boh, o anche il Nord, ma perché? Cioè dai, non raccontiamoci. Cioè, secondo me il vero problema è che se non fosse intervenuto il governo tutto sarebbe rimasto nel cassetto, e dimostra la fretta con cui adesso Asso Popolari presenterà una controproposta. Su questo voglio concludere sulla difesa comunque del mondo delle popolari. Dicono: attenzione, in altri paesi, professor Zingales, esistono modelli simili e quindi non siamo noi un'anomalia. Ma difatti io non ho niente contro il modello del voto capitario, secondo me la bellezza del capitalismo è anche la diversità, c'è spazio per le grandi banche SPA, c'è spazio per le piccole banche popolari, c'è spazio per le cooperative, c'è spazio per tutto, però quello su cui bisognerebbe essere più rigidi e dove secondo me la Banca d'Italia non è stata abbastanza rigida è che però tutti devono sottostare alle stesse leggi, e quando non sono in grado di gestire in un certo modo, avere abbastanza capitale eccetera eccetera, devono in qualche cambiare. Purtroppo abbiamo aspettato troppo e adesso, come le dico, abbiamo una riforma che è un po' violenta ma necessaria. Ora l'altro tema riguarda i movimenti in borsa, i giorni precedenti il decreto, ieri. Su questo sempre Matteo Renzi: se qualcuno fa delle operazioni di borsa, affari loro, io non faccio operazioni di borsa e rispetto chi le fa, ma se qualcuno, chiunque sia, comunque si chiami, ha commesso, perché è un reato questo, certo, cioè reato, ha utilizzato informazioni riservate per far questo, io sono il primo a chiedere che ci siano le indagini più rigorose possibile, e se qualcuno ha fatto il furbo è giusto che paghi fino all'ultimo giorno e fino all'ultimo centesimo. È chiaro questo? Detto questo, che le banche popolari trasformate in SPA e quindi costrette a cambiare la propria natura avrebbero naturalmente ottenuto maggiore interesse da parte del mercato, è un bene, un fatto positivo. Certo. Cioè vuol dire che c'è più valore per gli azionisti. Allora, professor Zingale, sei d'accordo con il premier Renzi? Tanto è difficilissimo poi dimostrare chi si è mosso prima. Comunque, anche sul movimento in borsa, prego. Ha perfettamente ragione, cioè chiaramente se uno ha usato informazione privilegiata, questo va punito. Il usare questo come scusa per non fare la riforma mi sembra folle, e il premier ha ragione che il fatto che il prezzo aumenti dimostra quanto mal gestite le società erano fino a questo momento. Oppure quanto, diciamo, fosse pietrificata quella foresta nel momento in cui era impossibile rendere contendibili, perché appunto sappiamo che i sindacati, guarda la Popolare di Milano, controllavano una banca, che era impossibile immaginare altro futuro se non quello esistente, infatti scontavano un 20% in media in meno di prezzo in borsa. Poi uno può dire: ah, ma questa è la speculazione. Ho capito, ma se un titolo sale perché qualcuno lo compra, perché gli dà maggior valore, o mettiamo in discussione anche questo. Vedremo la proposta poi delle banche popolari che si sono improvvisamente svegliate Grazie intanto al professor Luigi Zingales, che è in collegamento con noi da Chicago, dove non l'ho detto ma insegna appunto all'università. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio al resto della programmazione di Radio 24 e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.